Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a maggio del 1833. La polizia sabauda smantella la rete della Giovine Italia, un congiurato si toglie la vita in carcere. Germania Unita si parte dalle dogane, aboliti i dazi per il commercio tra gli stati tedeschi. Alta tensione tra Regno Unito e Argentina, i britannici occupano le isole Falkland. Dramma sul palco, muore mentre interpreta l'Otello il grande attore inglese Edmund Kean. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura dunque la maxi operazione di polizia avvenuta in alcune città del Regno di Sardegna. Oltre a quello di Giuseppe Mazzini, che ha tirato le fila del tentativo insurrezionale, il nome che i patrioti del Regno di Sardegna e di tutta Italia conserveranno nella loro memoria è senza dubbio quello di Jacopo Ruffini, perché la sua storia è destinata ad accendere gli animi, sia che veramente si sia tolto la vita in carcere, come recita la versione ufficiale, sia che sia stato barbaramente assassinato dalla polizia sabauda per evitare che al momento dell'esecuzione della pena capitale ne uscisse come un martire. Faceva parte Ruffini di una fitta rete di cospiratori con diramazioni a Genova, Alessandria e Chambéry, che comprendeva uomini dell'esercito e persino il cappellano di corte Vincenzo Gioberti. Le forze dell'ordine hanno scoperto e smantellato questa rete, 12 ufficiali sono stati fucilati, 9 patrioti condannati a morte in contumacia e tra loro lo stesso Mazzini, in 300 sono stati esiliati, compreso Gioberti. È finito in carcere invece Ruffini, e dopo un mese nel quale ha subito torture per costringerlo a confessare i nomi dei suoi compagni, si sarebbe tolto la vita. La leggenda che circola tra i liberali è che l'abbia fatto per non rischiare di cedere parlare. Altri sostengono invece che sia stato assassinato nella sua cella della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova. Un martire dunque, quale che sia la vera versione. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E mentre gli italiani lottano per l'unità della penisola, gli stati tedeschi fanno un passo avanti verso l'unità economica. Quelli del sud e quelli del nord, dopo lunghi anni di guerre commerciali, hanno raggiunto l'accordo per la creazione del cosiddetto Zollverein, ossia unione doganale, che metterà insieme ben 38 stati. L'idea è stata sostenuta con forza dall'economista, originario del Württemberg, Friedrich List, attuale console degli Stati Uniti a Lipsia. Entrerà in vigore il 1 gennaio prossimo. Alta tensione tra l'Argentina e il Regno Unito. Un gruppuscolo di isole dell'estremo Sud America, chiamate dall'ex colonia spagnola Malvinas, sono state occupate dall'esercito britannico. Il nome che gli inglesi hanno dato all'arcipelago, nel quale risiedono coloni di madrelingua spagnola appunto, è Falkland. Nel novembre scorso da Buenos Aires si era deciso di creare una colonia penale sulle isole, ma il generale inviato a questo scopo era stato ucciso in un ammutinamento. Il più grande attore britannico è morto, praticamente sulla scena. Edmund Kean, personaggio controverso, accusato di adulterio, costretto a separarsi dalla moglie, alcolizzato ma capace di straordinarie interpretazioni, si è sentito male sul palco del Covent Garden mentre recitava l'Otello e poche settimane dopo si è spento nella sua casa. A partire dal 1822 aveva vissuto anni difficili con il pubblico che aveva iniziato a disprezzarlo proprio a causa della sua vita privata. Ed è tutto per questa edizione. Sul nostro sito, come sempre, andate a scaricare il nostro foglio quotidiano, dove ci sono le immagini e le notizie di questo gazzettino. Lasciateci commenti nel nostro blog, nella nostra pagina Facebook, oppure inviando missive digitali a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.